Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Dal 6 al 18 febbraio del 1848. Una buona giornata da Simone Spezia, dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento, una nuova puntata speciale. Dopo i tumulti d'inizio anno a Milano e Lombardia, le tensioni politiche si stanno estendendo al resto dei regni italiani. A Livorno la rivolta è durata appena 4 giorni, iniziata il 6 gennaio, proseguita con la costituzione di una giunta, con a capo il democratico Francesco Domenico Guerrazzi, è stata sedata il 10 gennaio dalle truppe granducali arrivate in forze. Nel Lombardo-Veneto è scattata una durissima ondata repressiva che ha portato in carcere a Milano, tra gli altri, Gaspare Rosales e Achille Battaglia, a Venezia Daniele Manin e Niccolò Tommaseo. Le speranze di tutti continuano a concentrarsi su Roma, dove le parole del pontefice del 10 febbraio scorso sono state accolte da una folla festante e interpretate come patriottiche. Ascoltiamole. La cattolica unità, in altri tempi, nello scompiglio di tutto il mondo romano, fu la salute di Roma, con questa che non fu mai intera la rovina d'Italia. E questa sarà sempre la sua tutela, finché nel suo centro ci sarà questa apostolica sede. Perciò benedite, gran Dio, l'Italia e conservatele sempre questo dono preziosissimo di tutti, la fede. Un altro luogo dove si sta concentrando l'attenzione di tutti è sicuramente il Regno delle Due Sicilie. Già la data, Ferdinando, sarà sembrata una beffa. La scelta del 12 gennaio per l'avvio della rivoluzione a Palermo non è per nulla casuale, visto che è il giorno del compleanno del re, il suo 38esimo per l'esattezza. I primi manifesti che incitavano alla rivolta sono apparsi sui muri della maggiore città siciliana intorno al 9. «Allarmi, figli di Sicilia, allarmi», vi si leggeva, «la forza di tutti è onnipossente, l'unione dei popoli e la caduta dei re». Nel giro di 2 giorni la città era di fatto conquistata, con la guida di Giuseppe La Masa, tornato apposta dall'esilio, e di Rosolino Pilo. I tentativi dei Borbone di riprendere la città sono falliti e anzi, nel momento in cui vi parliamo, le truppe di Ferdinando controllano solo la parte fortificata di Messina e la città di Siracusa. Questo anche perché i fronti aperti si sono moltiplicati. Il Cilento è in rivolta e i segnali arrivati dalla stessa capitale hanno spinto Ferdinando a graziare i detenuti politici, ad allontanare il feroce ministro della polizia, Francesco Saverio del Carretto, e, infine, a concedere la Costituzione. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. E la notizia della Costituzione napoletana è arrivata in Piemonte il 31 di gennaio. Il giorno dopo ci sono state grandi dimostrazioni a Torino e Genova, perché anche i Savoia ne concedessero una. Carlo Alberto si è deciso in pochi giorni, ha annunciato l'8 febbraio la promulgazione di uno statuto. Il re ha anche firmato un decreto nel quale ai valdesi vengono concessi tutti i diritti civili e politici. È tutto, sul nostro sito potete come sempre scaricare il nostro foglio quotidiano, visitate il blog, la pagina Facebook, scriveteci a gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.